vita una stanzurella fredda e scura, adoravo t'ancetra se va sole, no stengo solo tengo una paura, che poco a poco me consuma cor. Paura che mi struia malattia, senza vede ch'io a Napoli, senza vede ch'io a te. Vorria tornato te, e non so a Napoli mia, e te sentie cantare con mille mandoline, furia tornando te, con mano vuota, amore mio, che te poteva sa, e me senti abbraccia, furia tornato te, che n'era sola Napoli mia, furia, furia, furia, ma sto con croce. mamma mia. Dem dia feliz che te do, o sol no seu surgir, em cada cor brillo, volto o sonho tal ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia verá. Nossa manhã, tal bela final manhã de carnaval, canta o meu coração, alegria voltada, feliz a manhã desse amor. que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Soldiers passing by, listen. disclosing in. Did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. In the wind of change, like me, to the magic of 내가 살아가는 동안에 하늘이 또 하나 있지. 바람 부는 벌판에 손이 젖고 나는 외롭지 않아. 구르나 손이 하나 떨어지면 눈물 따라 흐르고 그리다는 가슴 가슴마다 대차는 다시 더 Volver a soñar. otra vez. Volver a sentir a Dios, volver a olvidar lo que se fue. I hope the day will never come. 不了是你可以就走，烟不需要与你经过烟门后，烧不去请你花手手，山河太美头爱不明喷楼，山河太美头爱不明喷楼，呀呀下世这不足的金山银银流不断的绿水悠悠，呀呀这是最不足的金山银银流不断的绿水